mi amare in vano, accarezzavo con calma i tuoi capelli, guardando i tuoi occhi un po' ribelli, la pelle tua toccavo lentamente, sperando di capire cosa in mente, dicendomi qualcosa è già cambiato, mi spiace sai, amici più di prima, lo sguardo assorto, non parlavi mica, guardandomi e stringendomi le dita, dicendomi sai ti voglio bene, una lacrima scendeva lentamente, non piangere bimba, cos'è successo? Non dirmi che vuoi andar via lo stesso. Le favole non basteranno a lungo, carezze sai non dureranno tanto, ma so che ho bisogno di te adesso. Oh yeah. Oh yeah. Le nuvole guardavo alla finestra chiedendomi finite già la festa, la favola del tutto ormai svanita, cruda realtà, se mi svegliavo prima, lo sguardo buio, non capivo niente, un attimo e finisce lentamente, dicendomi sai ti voglio bene, una lacrima scendeva lentamente, non piangere bimba, cos'è successo? Non dirmi che vuoi andar via lo stesso. Le favole non basteranno a lungo, carezze sai non dureranno tanto, ma so che ho bisogno di te adesso. Oh yeah.